Va ora in onda Rock Revolution. Talk about destruction. Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Ask me for a contribution. Well, you know, we all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be? In diretta dagli studi radiofonici di CRM Happy Radio, va ora in onda Rock Revolution. Presenta Filippo Brancati. Buonasera, buonasera, bentrovati su CRM Happy Radio per questo nuovo appuntamento con Rock Revolution, il programma che ogni venerdì vi fa ascoltare la musica nuova, la musica emergente, ma anche i grandi successi rock più belli di tutti i tempi. Do il benvenuto al mio collega Simone Brancato. Simone, buonasera. Buonasera, buonasera a te Filippo, buonasera a tutti gli amici di Rock Revolution. Sono tornato dall'altra parte dell'acquario. E infatti mi hai preso in anticipo, perché volevo dare il benvenuto nuovamente a Gianni Testa, il nostro regista, che è tornato dall'estero e quindi si fermerà un paio di mesi e poi parte di nuovo, insomma, senza fissa dimora. Ci fa piacere perché è sempre bello viaggiare, e quindi lo salutiamo, diamo il benvenuto anche a lui, anche a Paolo e anche a Ida, la nostra redazione, tutti quanti pronti all'attacco questa sera per trascorrere queste tre ore all'insieme della musica emergente, la musica nuova, la musica rock, come piace fare a noi. Simone, anche quest'oggi un bel po' di interviste. Come sempre sì, avremo le due solite interviste, ovvero telefonicamente ci metteremo in contatto con i Buzz Benson e Blue Explosion, una band va fortissima, esplosiva ovviamente, il nome stesso lo dice, mentre in studio avremo il piacere di conoscere i The Amethyst da Palermo, band molto tosta. Hanno avuto non poche difficoltà per raggiungerci questa sera qui a Cefalù. Sappiamo insomma che questa mattina a Palermo c'è stato il terremoto, per fortuna nessun danno. Come siamo messi con gli tsunami? Sono previsti catastrofi in arrivo? Speriamo di no. Ma speriamo, insomma, vivamente di no. La nostra emittente è proprio sul mare, quindi saremo i primi colpiti. Qualora, insomma, se ce la facciamo, facciamo chiaramente tutte le corna del caso. E iniziamo questa puntata di Rock Revolution con il primo brano di questa sera, assieme a Kasabian. Questa è la loro nuova canzone, ne parleremo dopo con Simone. E vi daremo anche tutte le coordinate per mettervi chiaramente in contatto con noi via internet, via sms e via dicendo. Momento, inizia Rock Revolution. Where did all the love go? Cause it still ain't right. Where che temperature, insomma, non si capisce più se fa caldo, se fa freddo, vento, pioggia, sole. Era marzo che era pazzerella, aprile ormai dovremmo averla superata sta cosa qui, no? Eh sì, a me tra l'altro è anche quasi maggio, quindi a maggior ragione è molto preoccupante. Infatti, infatti. Allora, di cosa parliamo, Simone? Diamo le coordinate o parliamo subito dei Kasabian con questa canzone, sì, che abbiamo appena ascoltato? Sì, la canzone che stiamo ancora ascoltando è il secondo singolo estratto dal loro ultimo album, ovvero West Rider Pauper Lunatic Asylum del 2009. Uh-huh. E tra l'altro con questo album loro sono stati nominati ai Q Awards come miglior album dell'anno. Bene, bene. Allora, 335-56-37-251, questo è il numero per interagire con Rock Revolution via SMS, 0921 92 32 92, il telefono, oppure su Facebook, su Twitter e sul sito di crmpradio.it per mandare i vostri messaggi, quindi far parte di questa famiglia del venerdì sera, poi in replica il sabato pomeriggio dalle 19 alle 20 sempre su crmpradio. Adesso arrivano i Blink 182 e questo è il loro ultimo successo, si intitola Hop All Night. Come sapete, ci piace saltare un po' delle canzoni nuove, quelle appena uscite, le novità, chiaramente sempre in ambito rock and roll, a quelli che sono invece grandi successi di tutti i tempi. E se parliamo di grandi successi di tutti i tempi, automaticamente ed inevitabilmente dobbiamo parlare della mitica voce di Freddie Mercury assieme a Queen, con questa fantastica canzone dal titolo I Was Born to Love You. With every single beat of my heart. Yes, I was born to take care of you. Every single day. Hey! For your love.

Una canzone molto impegnata per gli Scapè. Una canzone che parla dell'abolizione della pena di morte, la denuncia della corruzione della classe politica, i diritti umani. Si intitola Intifada. Gli Scapè dalla Spagna sono tornati da poco assieme e a quanto pare ultime notizie ci fanno sapere che sono tornati in studio per la preparazione del loro nuovo album, quindi staremo a vedere, staremo a sentire più che altro quello che sforneranno gli Scapè. Adesso è giunto il momento di metterci in collegamento con Francesco Quartararo per conoscere quelli che sono gli eventi più interessanti, le notizie insomma più in del circondario di Palermo, provincia e Sicilia in genere. Francesco, buonasera, bentornato a Rock Revolution. Buonasera a voi, io mi sono riuscito ad ancorare alla sedia dopo questa mattina. Ecco, infatti vi posso sentire meglio. Sappiamo che quest'oggi c'è stata una scossa di terremoto questa mattina a Palermo. Come l'hai sentita tu? È stato forte? Fortunatamente è durato il tempo di uno starnuto, però si è fatta sentire. Ho saputo insomma che sono state chiuse le scuole, anche gli uffici, insomma, e quindi. Eh sì, si è ballato un po'. Ci faceva mancare niente, terremoto, piccolo uragano Lucy sopra la Sicilia, l'Etna che fa le smizze, veramente, sembra il 2012. Infatti, ma chissà che i Maya magari non ci azzecchino, speriamo di no, insomma, no? I Maya, mannaggia allora. Senti, parliamo di cose belle. Parliamo di cose belle. Allora, io continuo a registrare contest su contest su contest. Durante la settimana abbiamo avuto il Satisfactor Contest. Che ha portato avanti gli Acting Out, che ho sentito per la prima volta durante la prima semifinale Rizla Contest. A proposito, tre band vicinissime che si disputano, che sbaglieranno fino all'ultimo alla finale, ovvero i We All The Rage, gli Inside The Hall e i Giullari di Corte. Tornando invece al Satisfactor Contest, insomma, continueranno le semifinali, anche perché ci sono anche i Malia, i Novamente, che aspettano soltanto la prossima settimana per sapere con chi si sfideranno in semifinale. Questo riguarda il Satisfactor Contest, mentre ieri si è chiusa l'iscrizione a un altro contest musicale. Questa volta parteciperanno soltanto band con brani inediti. Si chiama Rockets on the Stage, organizzato allo Zazà, un noto locale che propone tanta buona musica a Palermo e insomma vi staremo a sentire. Bene, ho sentito tra l'altro un bel po' di nomi nuovi che almeno io personalmente non conoscevo, e quindi mi auguro insomma che tu possa far da tramite per poi invitarli chiaramente alla nostra trasmissione. Esatto, tra l'altro proprio questa sera ci sarà la finale per l'Italia Wave, che selezionerà le band siciliane per l'edizione 2012 dell'Italia Wave. Ti faccio un paio di nomi: la 21esima Fobia, Mano Manca, Gentless, Soul 7, Di Nuvolari, Giorgio Falsa Perna e il signor Pablo. Ah, Pablo, anche lui è un Pablo. Sì, alcuni di essi sono anche, mi hanno detto, dei nuovi cantautori locali, molto in gamba. Alcuni me ne hanno parlato bene, altri così, staremo a sentire. Bene. Senti, poi invece volevo chiederti com'è andata per la conduzione. So che ormai ti sei lanciato in questa nuova professione del presentatore, no? E la cosa ci fa molto piacere, che sei davvero molto in gamba. Che ti devo dire? Posso entrare tranquillamente nei locali e mettermi sul palco in posizioni assurde, con potendomi permettere anche una maglietta metal sopra una bella giacca in puro stile londinese. Sì, insomma. È un divertimento, però insomma anche i musicisti che si alternano sul palco ti rendono il lavoro abbastanza semplice a volte insomma bisogna aspettare le 2, le 3 affinché finisca tutta la gara. Immagini, prima di arrivare gli ultimi ad andare via, di solito così. Sì, tra l'altro ora veramente la musica non smette mai di essere suonata, ci vorrebbe quasi un appello da fare ai candidati, se siamo proprio lì per votarli. Caro candidato Leoluca Costandelli, così li assumiamo tutti e non si lamenta nessuno. Caro Leoluca Costandelli, ricordati che la musica a Palermo è veramente una risorsa inesauribile, quindi ricordatevi anche di dare la possibilità ai musicisti di esibirsi, e perché no, è sempre un circuito economico che si attiva. Assolutamente d'accordo. Quindi, anzi, inoltre il tuo appello anche per il prossimo sindaco di Cefalù, perché come sai anche qui a Cefalù ci sono le elezioni a breve, quindi lanciamo un appello anche affinché Cefalù possa dare più possibilità ai giovani di far musica, di aggregarsi, di provare, e anche ai turisti di poter usufruire di un po' di intrattenimento, cosa così che magari purtroppo... da Rimarca mandiamo foto di musicisti e non di cumuli di rifiuti. Ecco, ecco, bravo Francesco, esattamente. È un altro discorso ancora. Comunque io ti segnalo ancora stasera, proprio stasera, allo Zazà, un Dire Straits Tribute. Bellissimo. Poi invece domani abbiamo la seconda semifinale del Rizla Contest e abbiamo tanta musica particolare. Tra l'altro ti segnalo i Paradogma, che ufficialmente si presentano come una band synth rock, psychedelic, troppo bel rock. Ma che razza di genere? Sul troppo bel rock avrei qualcosa da chiedergli. Comunque sono simpatici, ci delizieranno domani sera. Avremo pure i Dween di ritorno da Berlino, con la loro musica popolare folk. Cinema Noir con un post rock veramente bello, e prevede anche le installazioni video, niente male. Deliria, che ormai sono di casa, e i Martiri di Falloppio, di cui mi sono innamorato, è una band catanese veramente in gamba. Bene, bene, saremo quindi saremo in attesa delle tue dei tuoi aggiornamenti per la prossima settimana riguardo tutti questi movimenti che sono previsti. Movimenti musicali, non tellurici. Speriamo, speriamo, speriamo. Senti, c'è qualche altra segnalazione che volevi donarci? Non so, per quanto riguarda qualche altra segnalazione, sicuramente Palermo offre tantissimi eventi e potete trovare su palermoreport.it, già ci sono quelli di questa sera, domani mattina quelli del sabato, e domenica due piccoli eventi che ci siamo insomma segnati. Faccio così per chi insomma avesse sentito qualcosa in mattinata, invito anche a leggere il nostro studio su palermoreport.it, perché tra le altre cose l'Istituto Nazionale di Geofisica continua a dire che il sisma è stato del 4.2 4.3. sì. Altri sismografi in America e in Europa dicono 4.7. Sembrano numeri, però è importante insomma capire che cosa sta succedendo, quindi. Certo, assolutamente. Ma auguriamoci insomma che tutto possa andare per il meglio. La Sicilia. Anche perché siamo in attesa di Siva in Sicilia. Quindi... infatti, anzi. Dimmi il nome. Chi si ricorda come inizia? Dimmi il nome. Con il terremoto, chiaramente. Con il terremoto. Anzi, con il terremoto. Sì, sì. No, invece ricordo Vulcano. C'è una canzone di Litfiba che inizia col rumore di un vulcano in eruzione. Non ricordo. Precisamente dice: sotto il vulcano non ci ferma nessuno. Speriamo sia così adesso. Dicono i catanesi. Va bene, Francesco, senti, ti ringraziamo nuovamente. Ci aggiorniamo la prossima settimana. Ci aggiorniamo anche per il Litfiba, che siamo in attesa di sapere se potrai essere insomma il nostro inviato al concerto del Litfiba e se potremo fare un'intervista. Quindi ci aggiorniamo in questi giorni, subito dopo il weekend, per tutto il resto. Va bene? Assolutamente, un abbraccio a tutti, buon rock, mi raccomando. Grazie, Francesco. Divertitevi. grazie Francesco. Ciao, Quartararo, palermoreport.it, le notizie più belle, più interessanti, gli eventi li sapete sempre in anteprima su CRMP Radio con Rock Revolution. Il prossimo brano è una band, loro sono i Black Keys, sono stati giudicati dai più grandi artisti della storia della musica come una band, scusate il termine, me lo passate, con le palle. Stiamo parlando del cantante di Led Zeppelin, il chitarrista di Metallica, Liam Gallagher, insomma un sacco di gente ne parla bene, e mi sembra giusto insomma farli ascoltare anche a voi con questa canzone che si intitola Lonely Boy. The Black Keys, Lonely Boy, CRMP Radio all'interno di Rock Revolution, anche questo venerdì sera. Ci siamo appena messi in collegamento con Francesco Quartararo, tra poco il collegamento anche con la band sorpresa di questa sera, un collegamento con la bellissima Roma. E poi avremo in studio invece una band da Palermo che presenterà un nuovo lavoro, siamo molto curiosi. La musica continua con i Doors, ci trasferiamo nel 1971 e dal 13° singolo della discografia dei Doors andiamo a pescare una canzone davvero molto particolare, quasi psichedelica. Tra l'altro, se ascoltate poi con calma nella canzone, durante la fase di mixaggio i Doors inclusero un effetto pioggia con dei temporali che la rende ancora più misteriosa e piena d'atmosfera. Il 45 giri, perché allora si parlava di 45 giri, disco chiaramente vinile, si piazzò alla numero 14 della Billboard dei tempi. Insomma, questa è Rise on the Storm e sono i Doors con la mitica voce di Jim Morrison. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man, sweet family will die. Killer on the road, man. Yeah.

provincia per presentarvi questo progetto musicale molto interessante. Parliamo dei Bud Spencer. Vediamo chi c'è al telefono, pronto? Ciao, eccomi. Buonasera, benvenuto a Rock Revolution. Ben trovati, sono contento di essere qui con voi. Bene, penso, immagino di parlare con Adriano. Esatto, sì, sono Adriano dei Bud. In realtà siamo in furgone, c'è pure Cesare. Stasera suoniamo. Ah, benissimo, dove andate a suonare? Dove suonate di bello? Suoniamo a vicino Padova. Bene, bene, sentite. Ah, quindi insomma un bel po' di viaggio. Ma voi siete di Roma originari, vivete a Roma? Sì, diciamo, noi facciamo base a Roma. Sì. In realtà veniamo ognuno dei due da due paesini di provincia. Uh-huh. Però insomma sì, siamo costantemente in tour, per cui giriamo molto l'Italia, siamo sempre in giro e insomma ci divertiamo. Bene, bene, quindi adesso siete nel furgone e state andando a Padova? Esattamente. Com'è il tempo da quelle parti? Beh, il tempo diciamo non è dei migliori, perché comunque insomma c'è sempre un po' di pioggia, in questo momento non piove, però insomma... Lì per fare qualche goccia. Vabbè. Allora sì, senti, no, intanto vogliamo... Beh, ma infatti, da bravi rocchettari, insomma, la pioggia esatto. non vi fermerà decisamente. Allora, volevo ricordare ai nostri ascoltatori subito i vari canali dove potete andare a prendere maggiori informazioni sui Bud Spencer. Allora, il loro sito internet è www.bsbemusic.com, esatto. Poi il myspace.com/Bud Spencer Explosion, Blue Explosion, esatto, sì. E ancora su Facebook, insomma, sapete tranquillamente, cercando Bud Spencer, Blues Explosion, di trovare poi il loro profilo. Adriano, iniziamo a parlare del vostro nome piuttosto insolito, no? Sì. Blue Spencer e Bud Spencer, Blue Explosion. Com'è nata l'idea di chiamarvi in questo modo? Beh, in realtà noi da principio eravamo fan di questa band americana famosa che si chiama John Spencer Blues Explosion, per cui... Quando dovevamo decidere un nome, insomma, ci piaceva l'idea di un nome lungo, no? Noi in realtà siamo in due, perciò un nome tipo Rage Against the Machine, Sly and the Family Stone, oppure appunto tipo John Spencer Blues Explosion. E fu un'idea goliardica quella, insomma, di appiccicarci sopra il nome di Bud, di Bud Spencer, mm-hmm. e appunto giocare su queste due realtà, no? Ci sono botte da orbi durante le vostre esibizioni dal vivo? Sì, no, sono abbastanza violenti, sì. Senti, parliamo di questo vostro progetto musicale, raccontaci un po' come è cominciato, come avete iniziato a realizzare i primi brani, i vostri primi lavori. Beh, è cominciato tutto onestamente semplicemente per la voglia di suonare ad occhi chiusi sostanzialmente, senza troppi schemi, fare improvvisazione, un po' riprendere un po' quello che facevano le vecchie jam band, no? Mm-hmm, negli anni certo. 70, però comunque insomma tutto volto a un sound moderno, no? Sì. Per cui cercando un po' l'evoluzione di quello che abbiamo sempre ascoltato. Mm-hmm. E in più diciamo che la peculiarità, no, della nostra attitudine è quella che insomma, ci vogliamo divertire. Certo, è la cosa più importante, penso, no, di tutto. Sì. Senti, se qualcuno che non vi ha mai ascoltati vi chiedesse mm-hmm. di descrivere in termini musicali il vostro sound, come sì. vi muovereste? Ma io, guarda, definirei abbastanza visionario. Mm. Sì, perché comunque lascia molto spazio all'immaginazione, per cui secondo me quella potrebbe essere una definizione rock calzante. Rock visionario, quindi? Blues visionario, una definizione esatto. abbastanza particolare e insolita. Senti, parliamo di testi, sono ispirati ad eventi personali o realmente accaduti o contengono particolari messaggi? Insomma, di cosa vi piace parlare maggiormente nelle vostre canzoni? Ma guarda, onestamente i testi sono un pretesto per accompagnare un po' la canzone. Diciamo, la cosa fondamentale per noi è la musica. Sì. La melodia e la melodia anche dei cantati. Il testo è sempre abbastanza secondario. Teniamo anche, cioè, in realtà abbiamo una nostra insomma estetica, no, lirica, mm-hmm. però diciamo che lavoriamo molto più sull'impatto sonoro, insomma, sonoro. Musicale. Senti, voi questa sera, siccome abbiamo anche tanti amici che ci seguono da altre parti d'Italia, noi trasmettiamo in FM in Sicilia, però su internet ormai trasmettiamo un po' dovunque in Italia, e magari sì. ci sono degli amici che avrebbero il piacere di venirvi a vedere suonare questa sera. Dove suonerete? In quale locale? Allora... questa sera suoneremo in un fantastico club qui vicino Padova, che per, di cui però in questo momento non ho memoria del nome. Ricordino, comunque però è un locale molto molto conosciuto qui vicino Padova, e tra l'altro chiunque volesse venire ad ascoltarci potrebbe vedere il nome su internet, uh-huh, su tutti quanti i nostri siti. Ecco, quindi se avete voglia, insomma, cercate su Facebook i Bud Spencer Blues Explosion e poi avrete la data e potete tranquillamente raggiungerli dove suoneranno. Esatto. Allora, grazie. Adriano, noi adesso ascoltiamo una vostra canzone, si intitola Più del Minimo. Esatto. Di cosa parla? Più del Minimo è un brano che tocca, diciamo, anche un argomento che ci è familiare in questo momento, che è anche la precarietà, per cui buon ascolto. Senti, siccome i Litfiba augurano sempre l'Aciodrom buon viaggio, lo facciamo anche noi, vi auguriamo buon viaggio e un grandissimo in bocca al lupo per questa prossima serata, ma per il vostro futuro soprattutto. Grazie infinite ragazzi, grazie mille. A presto, rock and roll. Un abbraccio, ciao. Ciao, ciao, ciao. Bud Spencer Blues Explosion su CRMP Radio all'interno di Rock Revolution, la musica nuova, in questo caso da Roma. Con questa formazione davvero molto particolare, molto interessante, ascoltatela, anzi, si intitola Più del Minimo. We'll be right back. l'ultima forse canzone degli Oasis, quando ancora i fratelli Gallagher stavano assieme, insomma una delle poche volte non litigavano, sì, praticamente. Questa è Lord Don't Show Me Down. Voglio salutare un po' di amici su internet che stanno chattando con noi. La Cristina che dice: bravissimi ragazzi, continuate così, grazie cara, buon ascolto. Matteo che sta dicendo: studio suon di rock. Ma vai a studiare. Ma poi il venerdì sera voglio dire. Esci, vatti a bere una birra, insomma, no? E vabbè. Adesso arrivano due brani in sequenza, questa settimana selezionati da Paolo. Ascoltiamo i Dream Theater e i Korn in questa sequenza senza interruzioni. We'll be right back.

Red Hot Chili Peppers con Parallel Universe all'interno di Rock Revolution, in questo momento in diretta su CRMP Radio, la radio che si sente e si vede. Tra pochissimo avremo il piacere di avere in studio con noi una band da Palermo, gli Amethyst, quindi parleremo con loro un po' di questo loro progetto nuovo. Saluto ancora un po' di amici. Carla che dice: io vado matta per Paolo, potete intervistarlo se può salutare Carla. Vabbè, adesso vediamo Carla, se cominciamo Paolo a fare questi saluti. Nel frattempo, un'altra bella canzone in arrivo, un grande classico della storia della musica rock. Paolo ha alzato le orecchie subito. Si intitola Stormbringer, mitici Deep Purple, e subito dopo intervista con la band di questa settimana. and gentlemen, Rock Revolution ha il piacere di presentare gli ospiti della settimana. Gianni, ma dico io, vai in vacanza e poi ti dimentichi tutte cose. No, vabbè. Gli diamo il benvenuto questa sera agli Amethyst. Buonasera ragazzi, benvenuti a Rock Revolution, ai microfoni, grazie regia. Benvenuti. Allora, questa sera abbiamo una band da Palermo, loro sono molto tosti, vi anticipo questa cosa qui, sono un terremoto. Quale parola più adatta questa sera, no? Vieni, tu avvicinati a me. Allora, abbiamo vi presentate da soli, no? Tu sei? Silvio, poi c'è Antonino Edoardo. Dunque, loro sono gli Amethyst. Vi do subito il loro indirizzo MySpace, così che nel frattempo potete andare a dare un'occhiata. Ed è quindi www.myspace.com/official Amethyst. E da lì potete, insomma, c'è qualche canzone caricata, ci sono delle foto. Sì, c'è in pratica il promo dell'album più una mezza canzone, che è la nostra prima canzone appunto dell'album. Bene. Tra l'altro abbiamo qui l'album, che è, quando è stato pubblicato questo qui? È stato pubblicato il 24 maggio 2011. Quindi quasi un annetto, tra poco, e ve lo facciamo vedere anche in webcam, così potete poi, se avete il piacere, dove è possibile trovare questo album? L'avete già distribuito in qualche modo? Sì, c'è la casa discografica che distribuisce, più vari siti internet, dove si può comprare su eBay. Su qualsiasi appunto indirizzo dove è possibile prendere quest'album. Bene. Allora, iniziamo adesso, poi parleremo meglio di questo album. Pregherei Simone di andare un attimo in regia. Iniziamo brevemente quindi dalle origini della band e quindi come sono nati gli Amethyst. Allora, gli Amethyst veramente ci sono sempre stati, perché in pratica io sono quello più grande, lui è mio fratello Silvio, Edoardo è mio cugino, quindi ci siamo... Tutto in famiglia. Sì, esatto. Un legame di sangue. Esatto, noi ci siamo formati così, prima un po' a scherzo, facendo qualche cosina, le solite cover da Metallica, Megadeth, eccetera, eccetera. E poi niente, abbiamo provato vari batteristi e poi appunto piano piano abbiamo cominciato a formare le nostre prime canzoni e così ci siamo piano piano lanciati. Bene. Allora parliamo di nome di questa band, Amethyst. Cosa significa, come mai? Amethyst perché in poche parole è la pietra delle lacrime, viene chiamata anche l'ametista. Ametista, sì. Sì, noi l'abbiamo scelto questo nome perché i nostri testi sono molto attuali, quindi parlano di stupro, di droga, di violenza, sì. Di qualsiasi cosa. Esatto, cronaca nera. E quindi, essendo che è la pietra delle lacrime, abbiamo avuto questa idea di chiamare il gruppo così, appunto, perché è molto una questione di temi delle canzoni. Esatto. Bene, allora io direi di andare subito ad ascoltare la prima canzone di questa sera. La volete annunciare voi? Fate DJ per okay, una sera. Ok, dai. La prossima canzone è Subversive Mind, Amethyst. Looking at my pain, you were on the stage. arrivano già dei messaggi per gli Amethyst, in questo caso Serena dice semplicemente: sono fighissimi, siete contenti? Grazie mille Serena. Grazie Serena, che salutiamo. No, poi stavamo guardando un po' la cover di questo CD, è davvero molto bello anche come tecnica proprio di nel mastering, la qualità audio e tutto quanto, è davvero un bel lavoro, vi faccio i complimenti. Grazie. E grazie poi mille. Ascoltando questa canzone Subversive Mind, c'era un verso proprio della canzone che dice: nothing that you can buy, it's what you call subversive mind. No, cioè sì. niente di quello che puoi comprare, sì, è chiamato cioè tutto quello che non puoi comprare è chiamato una mente sovversiva, sì, no? Quindi è una denuncia sul fatto che appunto i soldi, no, a volte non è detto che possano comprare tutto, esattamente. Quindi magari chi non riesce a comprare con i soldi pensa che quella persona che la pensa in modo diverso magari sia una mente sovversiva, no? Sì, esatto. Quindi un messaggio molto forte e molto importante soprattutto in questo momento, vuoi perché insomma con la televisione si ha sempre questa idea del fatto che i soldi fanno tutto e il successo fa tutto, esatto. E quindi è un messaggio importante che voi trasmettete con la vostra musica, questo vi fa tanto onore. Grazie. Parliamo di difficoltà nel riuscire a produrre musica, a fare musica. Come avete trovato la forza per poter fare musica? Avete trovato delle difficoltà nel riuscire a produrla? Beh, all'inizio un po' sì, perché appunto essendo che siamo tutti autodidatti qui, quindi abbiamo imparato tutto molto velocemente volendo, perché c'è stato veramente poco tempo, però poi piano piano, avendo ascoltato sempre Metallica, Megadeth eccetera, abbiamo, come si dice, abbiamo costruito il nostro stile, mm-hmm, pian piano, e così poi abbiamo iniziato, diciamo, comunque a scrivere. Sì, esatto, abbiamo cominciato a scrivere qualche canzone. Appunto la prima canzone che abbiamo scritto è Justice is Done, mm-hmm, che parla di uno stupro. Poi Temo Slaughters, che sembrano i quattro cavalieri dell'apocalisse che scendono sulla terra per fare giustizia. Esatto, mm-hmm. Entraped, che parla di droga. Sì, Entraped, che parla di droga. Poi Welcome to Hell è stata la nostra ultima canzone che abbiamo appunto composto qualche annetto fa, che parla di guerra. Tra l'altro c'è una canzone che si intitola allo stesso modo, Gli Scape, chissà se i contenuti sono uguali, poi magari lo scopriremo più, no, cioè nel senso non nei contenuti sono uguali, cioè chiaramente sottolineiamo l'originalità degli Amethyst, nel senso che magari il contesto, no, di quello si parla magari è simile, ed è comunque una cosa che ho notato, è presente in molte band, cioè il fatto di sentirsi un po' in un inferno, no? Sì, perché esatto. Sentite nell'inferno? Ma perché ci siamo nell'inferno. Ci siamo già, diciamo. Sì, perché comunque questo mondo, vuoi non vuoi, è pieno di persone che comunque vogliono fregare il prossimo, cercano sempre di tirare per sé senza guardare mai in faccia nessuno. Quindi la cosa è un po', come si dice, turbante. Sì, turbante, esatto, non mi viene il termine esatto. Un altro turbante. Messaggio da Sally77, vabbè sarà del 77, immaginiamo, siete bellissimi di più quello senza capelli, grazie, è molto gentile, c'è proprio una luminosità più forte, no? Allora, poi, prossima domanda, mi piace fare il terzo grado sempre, i ragazzi che vengono qui in studio, parliamo di scenario metal italiano attuale, quali secondo voi sono le band metal italiane migliori in questo momento in Italia? Beh, in Italia ce ne sono veramente tante, validissime, però almeno a mio avviso ce ne sono alcune che vanno ascoltate, come gli Extrema, che conosciamo benissimo. Gli Schizo ovviamente, siciliani di Catania, anche Bulldozer, comunque veramente ci sono molti gruppi, questo no, sì. Tantissimi che comunque non hanno una buona pubblicità e che comunque... certe volte si affatica anche a conoscere una band comunque emergente. Certo, assolutamente d'accordo. Parliamo di influenze musicali, no? Allora, ascoltando la vostra musica, inevitabilmente ci viene da chiederci come siete arrivati a questo sound, a queste sonorità. Cioè, quali sono stati gli artisti che magari in passato vi hanno influenzato, vi hanno dato l'input poi per creare questo genere musicale? Allora, come il primo gruppo, diciamo, sono stati Metallica. Noi siamo i nostri idoli, diciamo. È il gruppo che abbiamo iniziato, tra i primi gruppi che abbiamo ascoltato. Poi ci sono i Megadeth, un po' i Testament, Dark Angel e così via. Comunque ognuno di noi ha uno stile, diciamo così, un po' diverso. Poi ha acquisito le proprie influenze. Mi ispiro sempre sul Death Black. Lui va proprio sul genere completamente diverso. Death Black, anche se è metallica, ultimamente, insomma, sapete, hanno cambiato un po', sono diventati speed. E quindi cosa ne pensate di questa cosa, cioè di questo cambiamento di sound dei Metallica, visto che siete appassionati? A me piace, sinceramente, per perché è giusto che una band comunque durante il suo percorso musicale, dopo tanti anni di musica, giusto, secondo me, che arrivato a un certo punto, secondo me si deve anche cambiare o meglio adeguarsi un pochettino ai giorni d'oggi, ecco. Esattamente, esatto. Va bene, andiamo ad ascoltare la prossima canzone degli Amethyst questa sera all'interno di Rock Revolution, la musica emergente, la musica nuova, sempre gran qualità, su CRMP Radio, la radio che si sente e si vede. Abbiamo da Palermo gli Amethyst, vi ricordo il loro MySpace, Official Amethyst, ok, devo imparare, prima della fine dell'intervista lo imparerò a memoria, promesso. Vabbè, penso comunque su internet, su Google, cercando Amethyst, sì, no? Sì, Palermo, sì. Amethyst, verrà fuori. Avete anche un profilo Facebook, ci state lavorando? Sì, su Facebook ci trovate con Amethyst Trash. Perfetto, ascoltiamo Time of Slaughters. Diametis a Rock Revolution. Questa è la Time of Slaughters. Canzone davvero molto forte. Si parla di sangue, di morte, di massacri, cioè. Esatto, sì. No, poi mi piace anche questa parte del verso. Dice you're thinking all this has no sense, it's not the end. Quindi stai pensando tutto questo non ha senso, ma non è né la fine né l'inizio. Quindi dove ci troviamo in questo momento? Ma in questo momento ci troviamo in una specie di limbo dove non c'è tempo. In pratica questi quattro cavalieri cosiddetti dell'Apocalisse scendono dal cielo per fare giustizia e uccidere i cattivi e lasciare soltanto i buoni. I buoni, vabbè, è una cosa, comunque un messaggio positivo, sì. C'è in mezzo a tutto, esatto. Sto sangue, questa morte, c'è qualcosa. Però il messaggio è quello. Di positivo, bene. Sentite, per una band emergente, secondo voi è importante suonare dal vivo o partecipare a concorsi che talvolta, magari certe volte, possono essere veri e propri trampolini di lancio? Oppure secondo voi è importante soltanto concentrarsi sulla qualità della registrazione, della musica che si fa e basta? Un po' tutti e tre alla fine. Comunque i concerti sono molto importanti perché danno la possibilità al gruppo di dare visibilità alla band, comunque di salire un po' di notorietà, fare conoscere la propria musica. La registrazione è pure molto importante perché comunque mandando il CD a casa discografica, però loro ascoltano, la mia cosa ascoltano è la qualità della registrazione. Concorsi pure importanti, dipende in quale concorsi uno partecipa, può comunque trovare. Suonare il più possibile. Esatto. Suonare più. Avete partecipato già a qualche concorso? Beh sì, abbiamo partecipato nel 2008 al Music Village che si è tenuto in Calabria, dove abbiamo partecipato con tanti altri gruppi di tutta Italia. Noi siamo stati l'unico gruppo di Palermo che siamo riusciti a entrare in questo in questo evento, appunto, fra 80 gruppi partecipanti. Poi abbiamo partecipato in qualche altro festival così, ma di poco conto a Palermo, quindi niente di comunque che. Delle esperienze insomma importanti da fare, che comunque sì, fare sì, pratica, esatto. Sul palco i rinforza poi. Poi l'anno scorso comunque sì, abbiamo fatto un tour di un mesetto, 16 date. Mm-hmm. 16 erano giusto, sì. 16 date comunque in Europa, dalla Germania fino ad arrivare in Turchia. Ah ecco, e com'è stata questa esperienza all'estero? Un'esperienza molto bella comunque, siamo partiti comunque con dei ragazzi cileni, con un gruppo trash, una pure loro trash band davvero grandiosa, paurosa, sia eccezionali come musicisti e come persone, quindi ottima come esperienza di vita, incredibile, e anche come esperienza musicale, molto giustamente per il gruppo. È stancante, molto stancante, immagino, sì. Immagino. Sentite, abbiamo un bel po' di musica questa sera, c'è Antonio che vi saluta e dice, mica è bello questo pezzo di chitarra, salutiamo Antonio. Ciao Antonio. Non era proprio l'espressione mi, però diciamo che è un'espressione tipica siciliana, quindi lo ringraziamo e lo salutiamo. Andiamo ad ascoltare la prossima canzone, Intrappolato? Sì, esatto. Intrappolato, ne parliamo magari dopo di questa canzone. Vi facciamo vedere ancora una volta in webcam la copertina dell'album degli Amethyst da Palermo. Potete tranquillamente visitare il loro MySpace, Official Amethyst, oppure su Facebook li trovate molto facilmente. Potete andare a sbirciare, insomma, per saperne di più. Tra l'altro parlavamo del fatto anche che c'è qualcuno che ha lavorato con i Metallica, che gli ha dato delle dritte per fare quest'album. Ne parliamo dopo, Nel frattempo, dal nostro sito crmpiradio.it potete mandare i messaggi in tempo reale alla band, fare qualche domanda, salutarli, oppure via SMS al numero 335 56 37 251. I know what I can't escape. Altri messaggi da internet, da Riccardo, vediamo se riesco a prenderlo. Allora, Riccardo dice: bella band e bella musica, complimenti, finalmente un po' di metal in Sicilia. Grazie, grazie Riccardo, grazie. Complimenti ragazzi. Poi Dani e Mary, grandi ragazzi, complimenti da Roma. Bene, anche da Roma. Grazie mille. Vi seguono, grazie. E ci seguono, li salutiamo anche noi. Allora, parlavamo con i ragazzi del fatto che questa copertina, la cover di questa copertina, racchiude un po' graficamente tutte quelle che sono poi le canzoni, sì, del, sì, disco, ed è davvero molto molto bella, molto particolare. E leggendo i testi delle canzoni, ascoltando anche la musica, insomma, mi rendo conto del fatto che c'è veramente molto sangue, no? Sì, in questo disco, anche forse un grido, una ricerca di evasione, no? Da quella che è la realtà in cui viviamo, fatta di tante cose brutte e di tanti problemi, tra i quali anche quello della droga. Quindi sì, parlate, esatto, anche di questo. Volete fare un commento a riguardo? Beh, più che un'evasione, direi che noi sbattiamo in faccia la realtà dei fatti, solo questo, perché appunto sono esperienze che prima o poi si vivono, o che si vivono appunto in prima persona o indirettamente tramite amici, perché fanno determinate cose, eccetera. Quindi sì, solo questo volevo aggiungere, basta. Bene, allora, intanto volevo ricordarvi nuovamente i vari modi per mettervi in collegamento con noi. Se volete interagire con gli Amethyst da Palermo, allora via SMS al 335 56 37 251, numero per gli SMS, lo so, l'ho detto velocemente, però sul sito crmpradio.it trovate poi tutti i riferimenti, e siamo anche su Facebook, su Twitter e sul sito crmpradio.it, quindi insomma avete tutti i modi per poter, se volete, se è piacere, fare qualche domanda ai ragazzi che sono con me questa sera. Dunque, parliamo di obiettivi futuri. Cosa avete in mente per il futuro? Beh, obiettivi futuri: abbiamo a giugno il nuovo tour europeo, che si terrà a Bulgaria, Romania, comunque nell'Europa dell'Est, e qualcosa verso l'Austria e la Germania. E poi, beh, abbiamo appunto in programma di uscire il nuovo album con nuove canzoni, e speriamo che piacciono a tutti. Esatto. Speriamo che piacciono. C'è davvero una bella tecnica, belle sonorità, quindi avete tutti i presupposti per fare successo. È bello, insomma, sapere che in Sicilia ci sono delle band che riescono a farsi sentire, riescono ad andare avanti. Noi vi auguriamo chiaramente il massimo per tutto. Un altro messaggio ancora da Salvo: io ci tengo a salutare tutti quanti, perché è bello quando interagite con noi. Dice: suonerete a Palermo prossimamente? Beh, c'è la possibilità di suonare a Palermo prossimamente, forse si parla per il 4 maggio. Vedremo. 4 maggio, quindi tenetevi aggiornati chiaramente su Facebook, no? Esattamente, sì. Poi comunicazione di tutto. Allora, andiamo ad ascoltare l'ultima canzone, purtroppo, di questa sera, degli Amethyst. Un'esplosione, una notte con un'esplosione di metallo. Traduci tu, letteralmente dovrebbe essere, no? Beh, sì, una notte metal esplosiva. Una notte metal esplosiva. Questo è quello che ci vuole, effettivamente. Alle 11 di sera, poi in replica però il sabato pomeriggio, quindi va bene in entrambi i casi, perché di sera, per dargli la possibilità di vivere il weekend con la giusta energia, e il pomeriggio del sabato stessa cosa. Da Palermo, gli Amethyst. Questa è l'ultima canzone che ascolteremo stasera, poi andate a cercare sul loro MySpace Official Amethyst o su Facebook per avere maggiori informazioni su dove suoneranno e quindi come riuscire ad avere questo bellissimo CD. Get to the place that my full man Amethyst da Palermo, una band esplosiva, direi veramente un grandissimo sound, grandissime sonorità, grandissima tecnica. Tra l'altro parlavamo con i ragazzi del fatto che quest'album è stato praticamente scaricato da 3000 persone in Argentina e sì, esatto. Poi c'era anche un evento molto carino che vi è successo, lo volete raccontare, quello del furgoncino? Sì, va. Per la serie cerchiamo di sostenere la musica emergente, no? Esatto. Niente, l'anno scorso quando siamo partiti in tour, la prima tappa era a Praga. Ci siamo andati a ubriacare, abbiamo fatto la data, dopodiché siamo andati a dormire e il giorno dopo ci è venuto, in poche parole, a bussare un poliziotto, ci avevano rotto il finestrino del van e avevano fregato un bel po' di CD. Circa poi, 30 CD. E che poi hanno messo in vendita su heavymetalmarket.com. E sei solo venduti, no? Quindi, vabbè, diciamo che da questa esperienza avete scoperto e potete tranquillamente vendere la vostra musica perché va a ruba. Esatto, in poche parole. Va bene, ragazzi, allora ci salutiamo. Purtroppo, un grandissimo in bocca al lupo per il vostro futuro musicale. Crepi, lupo. Io mi sono fatto pronto autografare il CD dai ragazzi perché sono convinto che faranno successo. Io ho la mia bella copia che poi venderò su eBay a 100 milioni di euro. E quindi buon ritorno a Palermo. Avete visto, eravate un po' preoccupati per il tempo e per tutto quanto, alla fine è andato tutto bene. Sì, esattamente. Ecco, adesso appena ho detto sta cosa usciremo, ci sarà l'ira di Dio fuori. No, ci auguriamo di no. Quindi buon ritorno e in bocca al lupo per il vostro futuro nuovamente, siete fortissimi, va bene? Grazie mille. Grazie, restate con me, adesso ascoltiamo due brani in sequenza questa settimana, gli Iron Maiden e poi in Nirvana con delle canzoni di grande successo, tra l'altro in versione live, perché questo è il momento del Rock Revolution Live, due brani eseguiti dal vivo, tutti belli, belli, freschi per voi. Rock Revolution Live. Now you're Dopo il Rock Revo Live, due brani in sequenza dal vivo. Abbiamo ascoltato questa bella canzone del Queens of Stone Age, canzone tra l'altro inserita anche in diversi videogiochi di musica. Questa era No One Knows, contenuta all'interno dell'album per l'appunto No One Knows del 2002. Era un singolo pubblicato il 26 novembre per l'esattezza, ci teniamo a essere precisi. Ed è stato accompagnato anche da un videoclip molto discusso. Tra l'altro vi invito, se avete voglia, di andarlo a guardare, per voi internauti in questo momento che seguite Rock Revolution. Salutiamo anche Salvo, che vuole avere informazioni private sul mio conto. Caro Salvo, non credo sia il momento né il luogo adatto. Comunque ti salutiamo. Tanti gli amici anche questa sera che interagiscono con Rock Revolution. Salutiamo tutti voi internauti. Adesso vi dedichiamo il Rock for You, i quattro successi rock in sequenza senza interruzioni anche questa settimana. Quattro grandissime canzoni. Ogni venerdì alle 21 su CRM Happy Radio Rock Revolution, l'appuntamento rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sul big del mondo della musica nazionale e internazionale. Rock Revolution è anche su internet all'indirizzo www.rockrevolution.it. Rock for You, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. Believe in me. can't remember a word that you were saying. Are we demented or am I disturbed? The space that's in between insane and insecure. For You, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. Rock for You, quattro successi rock in sequenza, senza interruzioni. Quattro successi rock in sequenza senza interruzione. And E questo è il Rock for You, 4 successi rock in sequenza senza interruzioni. Questa settimana è durato veramente parecchio, quasi 20 minuti di Rock for You. Quindi vi ricordo che siete sul CRMP Radio. E questo è Rock Revolution, l'appuntamento rock del venerdì sera dalle 21 a mezzanotte, poi in replica il sabato pomeriggio dalle 19 alle 20. Quindi se avete voglia e piacere potete riseguirci il sabato pomeriggio e ascoltare un po' di rock and roll su CRMP Radio. Adesso un'altra canzone, lentamente ci avviciniamo alla mezzanotte, quindi potete comunque interagire con noi ancora, chiaramente, se avete piacere, dal nostro sito crmpradio.it. Adesso arrivano i Cake, ne parliamo tra un po', si intitola Sick of You. I'm so sick of you, so sick of me, I don't want to be with you. I'm so sick of you, so sick of me, I don't want to be with you. Guarda che bella sta canzone, i Cake, Sick of You. Tra l'altro è estratta dal sesto album. Adesso arrivano due brani in sequenza, anche questa settimana due grandissimi interpreti della musica internazionale. Parliamo degli AC/DC e dei Guns N' Roses, con due canzoni che sono sicuramente fra le più conosciute. La prima è appunto It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, titolo lunghissimo, ed è tra l'altro anche la colonna sonora di un film davvero molto carino che si intitola School of Rock, con l'attore, non mi ricordo come si chiama, quello biondo, adesso indaghiamo, facciamo sapere, la nostra redazione già è al lavoro. E poi Guns N' Roses scompare dai siti, tra l'altro canzone coverizzata a manetta e anche inserita in un videogioco. Buon ascolto!

erano i due brani in sequenza questa settimana, gli AC/DC con It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll e Guns N' Roses con la mitica Paradise City. Ringrazio Claudia e saluto Pepita, che sicuramente sarà dormendo in questo momento, per l'indicazione dell'attore di School of Rock, che è John Black. Ecco, finalmente, grazie Claudia, nostra fedele ascoltatrice. Simone, è una serata davvero molto intensa quest'oggi, come insomma tutte le puntate di Rock Revolution. D'altra parte abbiamo conosciuto questi ragazzi, queste due band da Roma e da Palermo. Sì, tra l'altro gli Amethyst c'hanno anche poi offline raccontato anche un po' quella sera, il loro tour in Polonia, in vari paesi del loro paese dell'est. Sono davvero molto divertente e molto anche appassionante sentire i loro racconti di vita vissuta, anche se sono dei ragazzi molto giovani. Infatti, infatti. Poi Gianni, cosa mi... dall'altra parte non ti sentiamo, è inutile che ti sbracci, non... vuoi parlare al microfono? Vabbè, sentiamo Cage the Elephant con Shake Me Down. Shake me down. Not a lot of people left around. Who knows now? Softly laying on the ground. Oh, not a lot of people left around. Oh, oh. In my life, I've seen people walk into the sea just to find memories plagued by constant misery. Thrice cast down, fixed upon the ground, thrice cast down. Elephant con Shake Me Down su CRM Radio, la radio che si sente e si vede. Questo è Rock Revolution. Se avete piacere, visitate il sito del nostro programma su internet, www.rockrevolution.it. Da lì potrete insomma scaricare in podcast tutte le repliche del programma, guardare le foto, insomma tenervi aggiornati su quelli che sono gli ospiti della settimana. Anche la prossima settimana abbiamo della musica veramente molto molto interessante, assolutamente da non perdere. Stavo dicendo a Lino Banfi, interessante. Baby, life is like a ride on a freeway, dodging bullets while you're trying to find your way. Everyone's around but no one does a damn thing. It brings me down, but I won't let them. If I seem fake, well, you'd be incorrect. And if I don't speak, it's cause I can't disconnect. But I won't be burdened by the reflection of the fire in your eyes. As you stare at the sun, Staring at the Sun. The Offspring chiude questa ennesima puntata di Rock Revolution. Allora era Jack Black, non John Black, grazie. Bene Simone, siamo arrivati anche oggi a conclusione. Ebbene sì, finalmente sono tornato dalla parte, dall'altra parte, dall'altra parte. Potrebbe, uno dice no, vabbè tranquillo. Ho ripreso la retta via, no, sto scherzando ovviamente. No, comunque no, ci fa piacere anche che questa una puntata dove finalmente è tornato il nostro regista dal suo tour invernale. E quindi per un paio di mesetti lo abbiamo ancora con noi. Lo salutiamo Gianni, lo abbracciamo. Salutiamo anche Ida Parlavecchio, la nostra redazione. Gianni in regia. Gli amici che sono stati con noi: Paolo, Antonello, Giuseppe, il nostro fotografo ufficiale. Fabio, ciao. Sempre puntuale, ha fatto un sacco di foto questa sera Giuseppe, lo ringraziamo tantissime. Appuntamento la prossima settimana, quindi con Rock Revolution. Non mancate assolutamente. Venerdì dalle 21 a mezzanotte e il sabato dalle 19.30 alle 22.30. Grazie Simone, alla prossima puntata. A voi, a te Filippo, ciao a tutti. Grazie a voi ascoltatori, su internet siete stati tantissimi. Vi ringraziamo, vi salutiamo sempre con affetto. Appuntamento la prossima settimana. Buon weekend e buona settimana. Bye bye. Avete appena ascoltato Rock Revolution su CRM Happy Radio.